N. Decima traccia. E se il suo compiacente fratello gli lasciava mai qualche punto su cui rivolgere domande, queste domande acquistavano perfino una certa intensità di tono. Mentre essi erano così piacevolmente occupati, Mr. Woodhouse s'abbandonava con gioia al pieno fluire di felici rimpianti e di pavido affetto con la figlia. «Mia povera casa Isabella», diceva, prendendole teneramente la mano, interrompendo per qualche momento il diligente lavoro di lei per qualcuno dei cinque bimbi. «Quanto tempo è trascorso, che tempo spaventosamente lungo da quando sei stata qui l'ultima volta. E come dicevi d'essere stanca dopo il tuo viaggio? Devi andare a letto presto, mia cara, e ti raccomando un po' di pappa diluita d'avena prima di coricarti. Io e te prenderemo una buona scodella di pappa insieme. Mia cara Emma, ti piacerebbe se tutti prendessimo un po' di pappa d'avena?» A Emma non poteva piacere una cosa simile, poiché sapeva che entrambi i fratelli Knightley erano irremovibili quanto lei stessa su quel punto, sicché furono preparate solo due scodelle. Dopo aver perso un altro po' di parole in lode della pappa d'avena ed aver espresso la sua meraviglia perché ognuno non ne prendeva ogni sera, egli proseguì con un'aria di grave riflessione. «È stata proprio una seccatura, mia cara, che tu abbia dovuto passare l'autunno a Southend invece di venire qui. Io non ho mai avuto molta opinione dell'aria di mare». Mr. Wingfield la raccomandò molto calorosamente, babbo, altrimenti non ci saremmo andati. La raccomandò per tutti i bambini, ma specialmente per la debolezza di gola della piccola Bella. Aria di mare e bagni. «Ah, mia cara, ma Perry aveva molti dubbi che il mare le potesse fare del bene. E quanto a me, è un bel po' che io sono perfettamente convinto, perché non te lo abbia forse mai detto prima, che molto di rado il mare giova a qualcuno. Sono sicuro che quasi ammazzò me». «Via via», esclamò Emma, sentendo che questo era un argomento scabroso. «Debbo pregarvi di non parlare del mare. Mi rende invidiosa e infelice. Io non l'ho mai visto il mare. Southend è proibito, capisci? Mia cara Isabella, non ti ho ancora sentito fare una sola domanda intorno a Mr. Perry. E lui non ti dimentica mai. Oh, il buon Mr. Perry. Come sta, babbo?» «Ma abbastanza bene, ma non proprio bene. Il povero Perry è fegatoso e non ha tempo di curare se stesso. Mi dice che non ha tempo di curare se stesso. Ciò è triste. Ma sempre lo vogliono tutti intorno nei paesi vicini. Mi immagino che non ci sia in nessun posto un uomo con tanta clientela. Ma neanche c'è in nessun posto un uomo così bravo. E Mrs. Perry e i bambini come stanno? I bambini crescono. Ho molta considerazione per Mr. Perry. Spero che faccia solo una visita. Sarà così contento di vedere i miei piccoli. Spero che venga qui domani, perché ho una domanda o due di qualche importanza da fargli su di me. E cara, quando viene, faresti bene a mostrargli la gola della piccola Bella. Oh, caro babbo, la sua gola è così migliorata che non mi sento più preoccupata al riguardo. O i bagni le hanno giovato moltissimo, o si deve attribuire a un'eccellente frizione di Mr. Wingfield che ho applicato di tanto in tanto da agosto in qua. Non è molto probabile, mia cara, che i bagni possano averle giovato, e se avessi saputo che avevi bisogno d'una frizione ne avrei parlato a... Mi sembra che tu ti sia dimenticata di Mrs. e Miss Bates, disse Emma. Non ti ho ancora sentito chiedere di loro. Oh, quelle buone Beth, proprio mi vergogno, ma tu le ricordi in quasi tutte le lettere. Spero che stiano bene. La buona vecchia Mrs. Beth, domani andrò a farle visita e ci porterò i bambini. Sono sempre così lieta di vedere i miei bambini. E quell'eccellente Miss Beth, che gente come si deve. Come stanno, babbo? Abbastanza bene, mia cara, in complesso. È abbastanza bene, mia cara, in complesso, ma la povera Mrs. Bates ebbe un brutto raffreddore circa un mese fa. Quanto mi dispiace, ma non ci sono mai stati tanti raffreddori come quest'anno. Mr. Winfield mi ha detto che non gli è mai capitato di vederli così diffusi e o gravi, eccetto quando si è trattato di vera e propria influenza. E tale è stato più o meno il caso, mia cara, ma non fino al grado che tu dici. Perry dice che i raffreddori sono stati molto diffusi, ma non così gravi come li ha visti assai spesso in novembre. Perry non la definisce del tutto una stagione di cattiva salute. No, non credo che Mr. Winfield la consideri di molto cattiva salute, eccetto. Ah, mia povera figlia cara. La verità è che a Londra è sempre stagione di cattiva salute. Nessuno gode buona salute a Londra, nessuno può goderne. È una cosa terribile che tu sia forzata a vivere là, così lontana, in un'aria tanto cattiva. Ma no, davvero, non stiamo affatto in un'aria cattiva. La nostra parte di Londra è tanto superiore a quasi tutte le altre. Non devi mica confonderci con Londra in genere, caro babbo. I paraggi di Brunswick Square sono molto diversi da quasi tutto il resto, c'è tant'aria. Non mi piacerebbe, lo confesso, di vivere in qualunque altra parte della città. Non ce n'è un'altra dove sarei contenta di tenere i miei bambini. Ma la nostra è tanto ariosa. Mr. Winfield crede i paraggi di Brunswick Square decisamente i più favorevoli quanto ad aria. A mia cara, non è come Arfield, tu cerchi di adattartici, ma quando siete stati una settimana a Arfield, tutti voi diventate degli esseri diversi, non avete più la stessa cera. Ora io non posso dire che nessuno di voi abbia una buona cera adesso. Mi spiace di sentirti dire questo, babbo, ma ti assicuro che, a eccezione di quei piccoli mali di capo o palpitazioni nervose di cui non sono interamente libera in nessun posto, io sto proprio bene, e se i bambini erano un po' pallidi prima di andare a letto, era soltanto perché si sentivano un po' più stanchi del solito per il lungo viaggio e per la loro gioia di venire. Spero che tu abbia a ricrederti domani sul loro aspetto, che ti assicuro che Mr. Winfield mi ha detto che non credeva di averci mai visti partire così bene in salute. Almeno oso sperare che tu non pensi che Mr. Knightley abbia una brutta cera, volgendo gli occhi con ansia affettuosa dalla parte di suo marito. Così così, mia cara, non posso farti i miei complimenti. Credo che Mr. John Knightley abbia tutt'altro che una buona cera. Che c'è, signor mio? Mi avete rivolto la parola? Esclamò Mr. John Knightley, sentendo fare il suo nome. Mi spiace assai di sentire, amor mio, che mio padre non crede che tu abbia una buona cera. Ma spero che dipenda solo da un po' di stanchezza. Avrei potuto desiderare però che tu avessi veduto Mr. Winfield prima di partire da casa. Mia cara Isabella, esclamò egli in fretta, ti prego di non darti pensiero della mia cera. Contentati di tenere nella bambagia te e i bambini e lasciami avere la cera che mi pare. Non ho ben capito quel che stavate dicendo a vostro fratello, interloquì Emma, intorno al desiderio del vostro amico Mr. Graham, che intenderebbe di far venire un fattore dalla Scozia per amministrare la sua nuova tenuta. Ma farà al caso? Non sarà troppo forte il vecchio pregiudizio? Ed essa parlò a questo modo così a lungo e con successo, che quando fu obbligata a dar di nuovo la sua attenzione al padre e alla sorella, non ebbe da sentir nulla di peggio del cortese informarsi di Isabella intorno a Jane Fairfax. E sebbene di solito non fosse troppo nelle sue grazie, in quel momento fu lietissima di aiutare a lodarla. Quella buona, amabile Jane Fairfax, diceva Mrs. John Knightley, è tanto che non l'ho veduta, eccetto di quando in quando un momento per caso in città. Che felicità deve essere per la sua buona vecchia nonna e per la sua eccellente zia quando essa viene a far loro visita. Mi rincresce sempre tanto per via della cara Emma, che essa non possa stare di più a Ivory, ma ora che la loro figlia si è sposata, suppongo che il colonnello e Mrs. Campbell non riusciranno a separarsi affatto da lei. Sarebbe una compagna così deliziosa per Emma. Mr. Woodhouse fu pienamente d'accordo, ma aggiunse: «Tuttavia, la nostra piccola amica, Harriet Smith, è proprio un'altra graziosa giovinetta del genere. Harriet ti piacerà. Emma non potrebbe avere compagna migliore di Harriet». «Son felicissima di sentirlo, solo che sappiamo che Jane Fairfax è così compita, una ragazza così superiore, esattamente dell'età di Emma». Questo tema fu discusso molto felicemente e ne succedettero altri della stessa importanza e passarono con simile armonia. Ma la serata non si conclusa senza un piccolo ritorno d'agitazione. Venne la Papa d'Avena e offrì il destro a molti discorsi, molte lodi e molti commenti, inconfutabili asserzioni della sua salubrità per ogni costituzione e assai severe filippiche contro le molte case dove non la si trovava mai preparata in modo tollerabile. Ma sfortunatamente, tra gli esempi di successo citati dalla figlia, il più recente e perciò il più cospicuo fu quella della sua propria cuoca a South End, una giovane presa a servizio temporaneamente, che non era mai riuscita a capire che cosa Isabella intendesse per una scodella di buona pappa liscia d'avena, diluita ma non troppo. Per quante volte la desiderasse e ordinasse, non era mai riuscita a ottenere nulla di tollerabile. Questo era un pericoloso spunto. «Ah!» fece Mr. Woodhouse, scuotendo il capo e fissando gli occhi su di lei con tenera sollecitudine. Codesta esclamazione significava all'orecchio di Emma: «Ah! Non finiscono più le tristi conseguenze del tuo recarti a South End. Non se ne può neppur parlare». E per un po' di tempo essa sperò che egli non ne avrebbe parlato e che una silenziosa ruminazione sarebbe stata sufficiente a restituirlo all'assaporamento della propria pappa liscia. Dopo qualche minuto di intervallo, tuttavia, egli cominciò con: «Mi dispiacerà sempre moltissimo che tu sia andata al mare quest'autunno invece di venire qui». «Ma perché dovrebbe dispiacerti, babbo? Ti assicuro, ha fatto un gran bene ai bambini». «E poi, se dovevi andare al mare, sarebbe stato meglio che non fosse stato a South End. South End è un luogo insalubre». Perry rimase sorpreso che tu ti decidessi per South End. «So che molta gente la pensa così, ma davvero è proprio uno sbaglio, babbo. Noi tutti godemmo là una perfetta salute e non sperimentammo il minimo inconveniente per via della memma. E Mr. Winfield dice che è assolutamente sbagliato supporre che il luogo sia insalubre. E io sono sicura che ci si può fidare di lui, poiché egli comprende a meraviglia la natura dell'aria, e suo fratello con la famiglia si è recato là a più riprese». «Dovevi andare a Cromer, mia cara, se proprio avevi da recarti al mare. Perry fu una volta per una settimana a Cromer, e lo considera il migliore di tutti i posti di bagno di mare. Nel mare aperto, dice, aria purissima. E a quel che intendo, là avresti potuto trovare un alloggio lontano dal mare, a un quarto di miglio, molto comodo. Avresti dovuto consultare Perry». «Ma caro babbo, pensa alla diversità del viaggio. Considera soltanto quanto sarebbe stato grande. 100 miglia forse invece di 40. «Ah, mia cara, come dice Perry, quando è in ballo la salute si dovrebbe passare sopra qualunque altra considerazione, e se uno deve viaggiare c'è poco da scegliere tra 40 miglia e 100. Meglio non muoversi affatto, meglio rimanere a Londra che viaggiare per 40 miglia per trovare un'aria più cattiva». Ecco, né più né meno, quanto ha detto Perry. A lui parve un provvedimento molto sconsigliato. I tentativi di Emma di far star zitto suo padre erano stati vani, e quando egli fu arrivato a questo punto, essa non poté meravigliarsi che il cognato scattasse. «Mr. Perry», disse egli con una voce che denotava una fortissima contrarietà, «farebbe bene di tenersi per sé la sua opinione fin quando non gli viene richiesta. Perché crede che sia affar suo meravigliarsi di ciò che facciamo noi? Che io conduca la famiglia da una parte o dall'altra della costa? Spero che si vorrà concedere a me, non meno che a Mr. Perry, di usare il mio giudizio. Io non voglio le sue istruzioni come non voglio le sue medicine». Fece una pausa e, raffreddandosi in un momento, aggiunse solo con un tono secco e sarcastico: «Se Mr. Perry può dirmi come trasportare una moglie e 5 bambini alla distanza di 130 miglia senza maggior spesa o scomodo che alla distanza di 40 sarò disposto a preferire con lui Cromer a Townsend. «Vero, vero!» esclamò Mr. Knightley, pronto a interporsi. «Verissimo, codesta è davvero una considerazione da fare. Ma John, circa quanto ti stavo dicendo della mia idea di spostare il sentiero di Langwand, di volgerlo più a destra perché non tagli i prati intorno alla casa, non ci vedo nessuna difficoltà. Non ci proverei se la cosa dovesse rappresentare un inconveniente per la gente di Highbury, ma se tu richiami alla mente con esattezza l'attuale percorso del sentiero, l'unico modo di dimostrarlo, tuttavia, sarà di ricorrere alle nostre carte. Spero di vederti domattina all'abbazia, e allora studieremo le carte e tu mi dirai la tua opinione». Mr. Woodhouse era piuttosto agitato per tali aspre critiche al suo amico Perry, al quale egli aveva di fatto, sebbene inconsciamente, attribuito molti dei suoi sentimenti e delle sue espressioni. Ma le calmanti premure delle sue figlie a poco allontanarono il male presente e l'immediata vigilanza di uno dei due fratelli e la miglior memoria dell'altro impedirono che si ripetesse. Non ci poteva essere al mondo creatura più felice di Mrs. John Knightley durante questa breve visita a Harfield. Si recava circa ogni mattina dalle sue vecchie conoscenze coi suoi 5 bambini e ogni sera chiacchierava col padre e con la sorella di ciò che aveva fatto. Non desiderava che nulla fosse diverso se non che i giorni passassero molto rapidamente. Fu una visita incantevole, perfetta per il fatto stesso della sua brevità. Di solito le loro sere erano meno impegnate con gli amici delle loro mattine, ma un completo impegno per pranzo e anche fuori di casa non era possibile evitarlo, sebbene si fosse sotto le feste di Natale. Mr. Weston non ammetteva un rifiuto, dovevano pranzare tutti a Randalls un giorno. Perfino Mr. Woodhouse venne persuaso a ritenerlo una cosa possibile, a preferenza di una scissione del loro gruppo. Sul mezzo di trasporto egli avrebbe creato una difficoltà se gli fosse riuscito, ma siccome la carrozza e i cavalli del genero e della figlia si trovavano proprio a Harfield, non gli fu possibile far di più di una semplice domanda su codesto punto. Non era neanche un dubbio. Gli ci volle molto tempo a Emma per convincerlo che in una delle carrozze avrebbero potuto trovare posto anche per Harriet. Harriet, Mr. Elton e Mr. Knightley, la loro speciale cerchia d'amici, furono le sole persone invitate a trovarsi con loro a quel pranzo. L'ora doveva essere non tarda e il numero dei confitati ridotto, che in ogni cosa si consultavano le abitudini e le disposizioni di Mr. Woodhouse. La sera prima di questo grande evento, poiché era un grande evento che Mr. Woodhouse dovesse pranzare fuori il 24 di dicembre, Harriet l'aveva passata a Harfield e si era recata a casa così indisposto con un'infreddatura che, se non fosse stato suo desiderio di essere curata da Mr. Goddard, Emma non avrebbe potuto permettere di uscire. Emma andò a trovarla il giorno dopo e trovò che il suo destino era già segnato quanto a Randalls. Essa era assai febbricitante e aveva un brutto mal di gola. Mrs. Goddard era piena di premure d'affetto, si parlò di Mr. Perry, e Harriet stessa era troppo malata e abbattuta per opporsi all'autorità che le escludeva da quel delizioso invito, sebbene essa non potesse parlare della sua perdita senza molte lacrime. Emma rimase con lei per quanto poté, per assisterla durante le inevitabili assenze di Mrs. Goddard, e per cercare di sollevarla facendole considerare quanto sarebbe rimasto male Mr. Elton quando avesse appreso il suo stato, e la lasciò alla fine abbastanza consolata, alla dolce riflessione che egli avrebbe trascorso una serata quanto mai sconsolata, e che tutti loro avrebbero sentito assai la mancanza di lei. Emma non si era allontanata di molti passi dalla porta di Mr. Goddard, quando si imbatté proprio in Mr. Elton, che evidentemente veniva quella volta, e mentre essi camminavano pian piano insieme come il santo della malata, della quale egli, sentendo parlare di una malattia di qualche entità, veniva a informarsi per recare notizie di lei a Harfield, furono raggiunti da Mr. John Knightley, che tornava dalla sua visita quotidiana ad Donwell coi suoi due figli maggiori, le cui facce sane e rubiconde mostravano tutto il beneficio di una corsa in campagna e parevano assicurare che avrebbero spolverato in 4 e 4/8 il montone arrostito e il budino di riso che facevano loro accelerare il passo verso casa. I sopravvenuti si unirono ai due e tutti proseguirono insieme. Emma stava appunto descrivendo la natura dell'indisposizione dell'amica, una gola molto infiammata, un bel po' di calore, un polso rapido e depresso, eccetera, e le dispiaceva di sentire da Mrs. Goddard che Harriet aveva tendenza a forte mal di gola e spesso l'aveva allarmata con essi. Mr. Elton sembrò molto agitato nella circostanza, mentre esclamava: «Un mal di gola? Spero di natura non infettiva. Spero non si tratti di un'infezione putrida. La veduta, Mr. Perry, davvero dovreste aver riguardo per voi, non meno che per la vostra amica. Lasciate che io vi preghi di non correre rischi. Perché non viene a vederla, Mr. Perry?» Emma, che non era affatto spaventata lei stessa, calmò questo eccesso d'apprensione con delle parole rassicuranti sull'esperienza e la premura di Mrs. Goddard. Ma siccome doveva rimanere un po' di inquietudine che essa non poteva desiderare d'allontanare con buone ragioni, che anzi avrebbe voluto piuttosto alimentare e secondare, aggiunse subito dopo come se si trattasse di tutt'altro argomento: «Fa tanto, ma tanto freddo, e c'è una tale aria di neve che se si trattasse di qualsiasi altro posto o di qualsiasi altro invito, oggi davvero cercherei di non uscire e di dissuadere mio padre da rischiarsi fuori. Ma dal momento che ha preso questa decisione e non pare sentire lui stesso il freddo, non ho voglia di intromettermi, poiché so che ciò darebbe un'immensa delusione a Mr. e Mrs. Weston. Ma, parola d'onore, Mr. Elton, se fossi in voi, certamente cercherei di esimermi. Già mi sembrate un po' rauco, e se considerate che dispendio di voce e quanta fatica vi verranno richiesti domani, penso che non sarebbe nulla di più di una prudenza elementare rimanere a casa e aversi riguardo stasera». Mr. Elton prese un'aria come se non sapesse esattamente che cosa rispondere, ed infatti tale era il caso, poiché, sebbene fosse molto lusingato per la cortese premura di sì bella signora e non gli piacesse di opporsi a un suo consiglio, non sentiva la minima inclinazione a rinunziare alla visita. Ma Emma, troppo presa dalle sue idee preconcette per ascoltarlo parzialmente o veder chiaro in lui, rimase assai soddisfatta della sua borbottata ammissione, che era molto freddo, certo, molto freddo, e continuò a camminare, rallegrandosi d'averlo disimpegnato da Randalls e di avergli assicurato la facoltà di mandare a chiedere notizie di Harriet ogni ora della sera. «Fate proprio bene», disse, «presenteremo le vostre scuse a Mr. e Mrs. Weston». Ma essa aveva appena finito di parlare che sentì che il suo cognato cortesemente offriva un posto nella propria carrozza, se il tempo era l'unico ostacolo di Mr. Elton, e che Mr. Elton di fatto accettava l'offerta con pronta soddisfazione. Era cosa fatta. Mr. Elton sarebbe andato, e la sua larga e bella faccia non aveva mai espresso tanto piacere quanto in quel momento. Il suo sorriso non era mai stato più pronunciato, negli occhi più esultanti di quando poco dopo gli si volse a guardarla. «Ma», disse Emma tra sé e sé, «questa è proprio strana. Dopo che io l'avevo aiutato così bene a disimpegnarsi, preferire di recarsi in società e lasciare Harriet a casa malata. Proprio strano davvero. Ma c'è in molti uomini, penso, specialmente negli scappoli, tale inclinazione, tale passione per pranzare fuori di casa. Un invito a pranzo conta tanto tra i loro piaceri, le loro prerogative, quasi i loro doveri, che ogni altra cosa passa in sottordine, e questo deve essere il caso di Mr. Elton, un giovanotto indubbiamente stimabilissimo, amabilissimo, piacevolissimo, innamorato di Harriet, ma pure non sa dir di no a un invito, deve pranzare fuori ogni volta che lo sollecitano. Che strana cosa è l'amore! Egli riesce a vedere pronto ingegno in Harriet, ma non vuol pranzare da solo per amore di lei». Poco dopo, Mr. Elton li lasciò, ed essa non poté non rendergli la giustizia di sentire che c'era un bel po' di calore nel modo in cui nominò Harriet al momento di separarsi, nel tono della sua voce, mentre egli le assicurava che si sarebbe recato da Mrs. Goddard per avere notizie della sua bella amica. L'ultima cosa che avrebbe fatto prima di prepararsi al piacere di incontrarla da capo, e allora sperava di dar nuove più buone, e s'allontanò sospirando e sorridendo in modo da far pendere molto in proprio favore la bilancia dell'approvazione. Dopo qualche minuto di completo silenzio tra loro, John Knightley cominciò con: «In vita mia non ho mai veduto un uomo così preoccupato di rendersi piacevole che Mr. Elton. Ci si mette di lena quando si tratta di signore. Con gli uomini egli sa essere posato e spigliato, ma quando deve ingraziarsi di signore ogni suo lineamento si mette a lavorare». «Le maniere di Mr. Elton non sono perfette», rispose Emma, «ma dove c'è desiderio di piacere, uno dovrebbe passarci sopra». «E si passa sopra un bel po'. Quando un uomo fa del suo meglio con capacità soltanto modesta, avrà vantaggio sopra la superiorità negligente. Mr. Elton ha un'indole così buona, si perfetta benevolenza, che non si possono non apprezzare». «Sì», disse Mr. John Knightley subito, con alquanta malizia, «sembra che abbia un bel po' di benevolenza verso di te». «Me?» rispose lei con un sorriso di stupore. «Ti immagini che Mr. Elton faccia la corte a me?» «M'è venuta codesta idea, Emma, lo confesso, e se a te non è mai venuto in mente prima, puoi ben rifletterci adesso». «Mr. Elton innamorato di me, che idea!» «Non dico proprio che lo sia, ma farei bene a considerare se lo sia o meno e a regolare il tuo contegno in conseguenza. Credo che le tue maniere con lui siano incoraggianti. Parlo da amico, Emma. Faresti bene a sorvegliarti e a riflettere a quel che fai e a quel che intenti di fare». «Ti ringrazio, ma ti assicuro che sei proprio fuori strada. Mr. Elton e io siamo ottimi amici, nient'altro», e seguitò a camminare, divertendosi a pensare agli sbagli che spesso nascono da una conoscenza parziale delle circostanze, agli errori in cui non finiscono mai di cadere persone che si presumono giudiziose, e non molto contenta del cognato che l'immaginava cieca, ignorante e bisognosa di consigli. Egli non disse altro. Mr. Woodhouse aveva talmente fatto la bocca alla visita che, malgrado il crescente freddo, non pareva che pensasse a ritrarsene e alla fine partì con perfetta puntualità con la figlia maggiore nella sua carrozza e sembrava che si accorgesse meno degli altri del clima rigido, troppo pieno della meraviglia della sua spedizione e del piacere che avrebbe dato a Randalls per accorgersi che era freddo e troppo ben coperto per sentirlo. Il freddo, tuttavia, era intenso, e proprio quando la seconda carrozza si mise in moto, cominciarono a cadere alcuni fiocchi di neve, e il cielo aveva l'aspetto così carico che sarebbe bastato un po' d'aria più mite per stendere una candida coltre su tutto in brevissimo tempo. Emma s'accorse presto che il suo compagno non era nelle migliori disposizioni. Prepararsi e uscire con un tempo simile rinunziando ai suoi figli dopo pranzo erano mali o almeno inconvenienti che non piacevano affatto a Mr. John Knightley. Non sospettava dalla visita nulla che valesse tutto quello scomodo, e l'intera scarrozzata fino alla canonica fu da lui impiegata a esprimere la sua scontentezza. «Un uomo», egli disse, «deve avere un'opinione molto buona di se stesso per invitare la gente a lasciare il canto del loro focolare e affrontare una giornataccia come questa per venire a trovarlo. Deve ritenersi una persona quanto mai piacevole. Io non mi sentirei di fare una cosa simile. È la più grande assurdità. Ora comincia addirittura a nevicare. Che pazzia non lasciar che la gente se ne stia tra i suoi comodi in casa. Che pazzia che la gente non rimanga comodamente a casa propria quanto può. Se fossimo obbligati a uscire in una serata simile per le esigenze di un dovere o di un affare, che patimento lo stimeremmo. E invece eccoci qui, probabilmente vestiti più leggeri del solito, che usciamo di nostra propria volontà senza scusa alcuna, sfidando la voce della natura che dice all'uomo, in ogni cosa che si presenta alla sua vista o ai suoi sentimenti, di rimanere a casa e di tenere al riparo tutto quel che può. Eccoci qui, che usciamo per spendere 5 ore noiose nella casa d'un altr'uomo, senza nulla da dire o da ascoltare, che non sia stato detto o ascoltato ieri, e che non possa dirsi o ascoltarsi di nuovo domani.